Anche quest'estate giocherò col Super Santo, se me ne vanto. Scapperò da un vecchio che vorrà bucarlo e ci riuscirò. Correrò da un ombrellone all'altro fino a poi buttarmi dentro il mare ed arrivare al largo. Te l'ho mai detto che mi piaci da impazzire, che assomiglia a quest'estate anche se poi lei finirà. Sembro mio nonno che rimpiange il militare ed ogni cosa ormai passata che mai più ritornerà. Abbronzato Instagram, com'è bello postare, quanto è bello cantare questa canzone con te, Boom bam parara, tutta la spiaggia balla boom bam parara, ed ogni radio suona boom bam parara, ma cosa vuole dire boom bam parara? E sento il mare fare boom bam parara, tutta la spiaggia balla boom bam parara, ed ogni radio suona boom bam parara, ma cosa vuole dire boom bam parara? Anche quest'estate odio tutti tranne te, tranne te. C'è un politico che esclama libertà e fraternità. Ormai fare politica è solo un demodè. Eccola che arriva l'estate dei cliché. Vai, dove ti porta il cuore, dove ti porta il mare, caspita. Facciamo un bagno insieme alle buste della spesa in plastica, capita. Prima era tutta questione di chimica, adesso ci basta una storia, una mimica. Involuzione sociale o rivoluzione virtuale. Abbronzato Instagram, com'è bello postare, quanto è bello cantare questa canzone con te, E sento il mare fare boom bam parara, tutta la spiaggia balla boom bam parara, ed ogni radio suona boom bam parara, ma cosa vuole dire boom bam parara? E sento il mare fare boom bam parara, tutta la spiaggia balla boom bam parara, ed ogni radio suona boom.